scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un regista italiano che al Festival di Locarno ha presentato il suo film di prossima uscita. È nato a San Vito al Tagliamento nel 1976. Dopo la laurea in filosofia all'Università Ca' Foscari di Venezia, si trasferisce a Roma per iniziare la sua carriera nel cinema. Comincia come assistente alla regia e dopo 7 anni, nel 2008, decide di produrre il suo primo lungometraggio, Rumore Bianco, una riscoperta delle tradizioni del tagliamento. Nel 2013 vince il Marco Aurelio d'Oro per il miglior film al Festival Internazionale del Film di Roma con Tir, storia di un ex professore croato che per guadagnare di più decide di lavorare per una ditta italiana come camionista. Yeah. Ci mirai da stesso il mece. Sumiam. Metto za sada došao od kuće da bi sad došao ovdje i čami očekaj. Se noi facciamo come fai tu, chi è che ci dà da mangiare fra un mese, due mesi? Ma che dio stanno a questi? Nell'ottobre 2015 uscirà con Genitori, documentario su un gruppo di mutuo autoaiuto di genitori di ragazzi disabili. La storia di un gruppo di genitori che da 16 anni si incontrano ogni 15 giorni per parlare della vita quotidiana e per aiutarsi l'un l'altro. Genitori è stato presentato fuori concorso al Festival di Locarno, dove abbiamo incontrato la voce in scena di oggi, il regista Alberto Fasulo. Questo fa parte del mutuo reciproco sostegno, no? Cioè il mio aiuto corrisponde all'aiuto dell'altro e da lì si innesca la relazione. È un film sulla relazione, sulla parola. I gruppi di mutuo autoaiuto funzionano così proprio, no? C'è un rimbalzo di domande e di risposte possibili. E lì ho trovato la magia, cioè lì io veramente mi sono sentito molto fortunato a aver accesso a questa dinamica, perché è una dinamica secondo me che tutti dovrebbero poter accedere. Insomma, io farei gruppi di mutuo autoaiuto per i registi, sì. per tutti, insomma, no? Perché per i giornalisti, voglio dire, tutti abbiamo difficoltà, no? Voglio dire, da dover metabolizzare, comprendere, capire meglio. E allora quando hai la possibilità di avere più punti di vista, allora è come se tu avessi più orecchie. Cosa ricordi, Anna, di quel giorno? Cosa ricordi? È successo tardi, alle 11:30, e noi eravamo a Mestre. E lui era qua. E mi ricordo un pomeriggio che era tutto felice perché aveva 3 opzioni: andare con la fidanzata, andare al mare o venire con noi. Ha scelto di stare a casa. Quando siamo rientrati e non abbiamo trovato nessuno in casa, era l'1. Così. E un attimo dopo squilla il telefono e mio marito, che si era tolto le scarpe, non so perché, si è rimesso subito. E mi parla mio cognato, mi fa: sa, c'è stato un incidente. Pensato a Federica, perché mai più. No, veramente Tommy. L'attenzione solo sui genitori lo rende allo stesso tempo più facile, più difficile empaticamente e più facile da affrontare per lo spettatore, forse? No, non credo. Anzi, credo che il punto di vista che siano genitori, cioè quali noi siamo, ci porta invece a una medesimazione molto più alta che se non avessimo visto dei ragazzi diversamente abili. Quindi c'è una vicinanza che è maggiore rispetto ai film dove c'è una disabilità visiva, no? Cioè dove si vede, non so, penso ad altri film. Mi sono trovato molto in disaccordo con i film che vedono la disabilità o raccontano la disabilità come vedere un animale in una teca, ecco, no? Cioè io vedo che lui si comporta così, vedo che lo... Ecco, a me quella cosa lì è una cosa che mi fa molto soffrire. Primo, perché ritengo che domani mattina possa essere io quell'animale, posso scivolare dal gradino e diventare disabile in un quarto d'ora, ma proprio non è ecco, il mio rapporto con il mondo. Insomma, io mi sentivo sola, abbandonata, non sapevo cosa volevo, telefonavo ai servizi sociali, parlavo con la Bruni che un giorno mi ha dato tutta una nota di donne che venivano a fare le pulizie in casa. E io gli ho detto, ma io non ho bisogno di quelle, ma di cosa ho bisogno? Non lo so, veramente non lo sapevo. Io avevo bisogno di confrontarmi con qualcuno, no? Allora un giorno mi hanno detto, signora, venga qua che ne parliamo. E da lì è venuto fuori appunto di farmi conoscere altre persone che avevano la mia stessa... che avevano ragazzi magari o per malattia o per incidente, erano in carrozzina, insomma, ecco. Quindi avere questi confronti, relazionarci un pochettino, come si sono comportate loro, come cosa hanno fatto, l'iter, perché più sai e più, per conto mio, più sai e più magari cerchi di fare sempre per il bene di tuo figlio, no? Io non ho mai premura a chiudere un film, no? Perché mi dico sempre questo è l'unico film che farò su questo argomento, per cui cerco sempre di aspettare, di ritardare per comprendere sempre un po' di più che cosa sto facendo, la possibilità che ho. Ad esempio ho fatto un passaggio intermedio con loro, cioè io ho fatto una proiezione con loro di alcuni materiali e loro lì hanno capito ancora di più che cosa stavamo facendo e se ne sono impossessati e mi hanno lasciato e hanno dato ancora più fiducia a me e al film stesso. E allora lì si è aperto un argine che è arrivato dei momenti così alti che secondo me è stato quasi il film in qualche modo a metterli al centro di una situazione di responsabilità, per cui no, insomma. Tu quindi hai fatto nascere questo film man mano che vivevi l'avventura di Tyr. Sì. Come è stato vivere due cose insieme? Beh, è stato in fondo sono due film che si parlano, secondo me, perché uno parla di una solitudine da solo e dall'altro parliamo di una solitudine condivisa, no? Però certamente Genitori è stato un film finalizzato e concretizzato dopo Tyr, dopo anche che è passata la sbornia di Tyr, perché insomma con la vittoria a Roma è stato un po', ho avuto bisogno di atterrare un paio di mesi dopo. Però sicuramente Genitori era già stato impostato durante, insomma, già adesso sto anche lavorando su un altro progetto, per cui è normale per me lavorare e capire quando magari sono stanco di un progetto, passare ad un altro e poi ritornare, insomma è sempre un dialogo, il mio lavoro è sempre un dialogo, o con la produzione o con i miei film o con i miei collaboratori in qualche modo. Per me il cinema è collettivo, insomma. Purtroppo ho avuto un problema che ho scoperto che mio fratello si è rivolto a, e volevo parlarne anche a un'agenzia matrimoniale. E lo sapeva. Aveva anche lui le sue richieste. Se è maggiorenne suo fratello, è capace di intendere. Io volevo telefonare a questa agenzia e dissuaderli, perché mio fratello si trova in una fragilità, deve spendere dei soldi che comunque non è che ha. Però la richiesta è il fratello, ribadisco, è capace di intendere di volere, voglio dire, avrà le sue fragilità, ma avrà anche i suoi bisogni prima di fare questa cosa qua. Sì, ma ho capito io, ma non si può, cioè io ho cercato anche di parlare con lui. Ma secondo me non è possibile, cioè è una farsa, perché non possono proporti, non è detto che trovi la donna della tua vita. Non danno garanzie, non sappi almeno. Spende dei soldi per qualcuno che gli offre un'illusione. Ci siamo detti che aspettiamo di vedere cosa succede qui. Però uscirà a ottobre, abbiamo innescato con la produzione uno sportello di raccolta delle associazioni di chi vogliono vedere il film, perché la condizione distributiva in Italia è insomma chiara, intasata, difficile, per cui cerchiamo questa volta di metterci in contatto anche proprio col pubblico. L'Istituto Luce però ha accolto appieno questa idea e soprattutto si è fatto portatore di questo film che ritengono importante. Vorrei che si aprisse un dibattito sull'importanza di sostenere le famiglie dei disabili. Io qui ho imparato dei concetti molto importanti, come necessaria una carrozzina, ma se non c'è nessuno che la spinge, quella carrozzina sta ferma. Questo l'ho imparato da loro. È un argomento probabilmente che è così vasto che viene purtroppo in qualche modo scotomizzato, nascosto, non sollevato. Però mi piacerebbe che quest'idea, questo concetto del mutuo autoaiuto si espandesse. Perché oggi si parla tanto di crisi, denaro. Qui non è questione di denaro. Qui è questione di spegnere le televisioni, di spegnere il cellulare e di incontrarsi, no? E non di incontrarsi in un centro commerciale, non di incontrarsi in una stanza, in un luogo silenzioso e di aprirsi. Una delle cose belle che potrebbero succedere è far girare fisicamente questo film. Sei pronto a seguirlo fisicamente? È la parte che amo di meno del mio lavoro, perché mi sconcentra molto, non dal film, ma perché l'incontro col pubblico dura al massimo un'ora e poi io spostandomi c'ho le altre 23 ore. Però in realtà è importante, no? In qualche modo è come se facessi un figlio e poi lo dessi a un istituto per crescerlo. E quindi è giusto che io in qualche modo segua il film. La produzione e la distribuzione hanno attivato un sistema di connessione con le associazioni proprio per questo. Questo film è fatto per il pubblico, non è fatto per me. Non è fatto neanche per i genitori stessi. Una delle maggiori paure che loro avevano era quello di apparire come egocentrici, no? Come interessati alla loro persona. E io ho detto che questo era il rischio da correre. Però mi sembra che l'obiettivo è questo e ci siamo abbastanza riusciti per adesso. Ed è tutto per l'appuntamento con la voce in scena di oggi, che era quella di Alberto Fasulo. Ancora un saluto da Marta Cagnola.